9 in punto. Buongiorno da Gianfranco Fabi. Come vi dicevo, Oscar Giannino è con noi a Parma. A Parma perché oggi pomeriggio, domani mattina, si svolge un grande convegno del Centro Studi Confindustria dedicato all'Italia. Come sbloccare questo paese dopo una fase di stagnazione, anzi di crisi, quali sono le prospettive per crescere, come fare per sbloccare la crescita, per cercare di costruire un futuro in cui si possa realizzare una nuova stagione appunto di sviluppo per il paese, di benessere per tutto il paese. Oscar Giannino è con noi, buongiorno Oscar. Buongiorno direttore, agli ascoltatori. Io entrerei subito nel vivo dell'argomento, perché ovviamente, come hai detto, questo convegno di 2 giorni in cui ci sarà una consueta ridda di ospiti di grande rilievo internazionali e nazionali, protagonisti del dibattito politico da Tremonti a Berlusconi, che interviene domani. C'è il presidente della BCE Trichet, e che con ciò che avviene sui mercati internazionali costituirà un punto di riferimento e di attenzione molto importante. C'è l'intervento di Almunia, quindi insomma c'è Nouriel Roubini, che come è noto col suo cigno nero ci ha dato un pochino una lezione su come bisogna stare cauti rispetto agli strumenti di previsione dei mercati. Ma oltre questo, in realtà il fuoco di questi 2 giorni è questo importante rapporto, che veramente io consiglio a tutti di leggere, curato dal Centro Studi di Confindustria, e abbiamo con noi il direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi, qui al mio fianco. Buongiorno Paolazzi. Buongiorno a tutti. Questo è un volume che secondo me ha un pregio straordinario, perché in un numero non troppo elevato di pagine consente anche a chi non è un tecnico, per così dire, di avere in mano un Baedeker, ma con dei numeri essenziali, molto raffinati e molto approfonditi, in cui ci sono tutta una serie di fotografie fondamentali su come è evoluta la condizione del nostro paese, dell'unità oggi. Cioè è un contributo sistemico questo che il Centro Studi di Confindustria ha voluto fare. Perché? Perché ricordando a noi tutti da dove veniamo, e quando dico noi tutti significa la popolazione italiana, le sue caratteristiche demografiche, come è cresciuto il suo benessere, il suo reddito pro capite, eccetera, eccetera, come è cambiata la nostra alfabetizzazione, la formazione del capitale umano, spostandosi poi verso le caratteristiche evolutive del nostro sistema economico, le tipologie di imprese, come sono cambiate nel tempo, qual è stato il loro apporto alla crescita nazionale, si arriva a focalizzare meglio i problemi irrisolti del passato, quelli aperti oggi, ma soprattutto poi ad avere, verso, man mano che si va verso la fine del volume, fino all'indagine che è stata curata tra gli imprenditori italiani e la popolazione italiana, delle indicazioni che secondo me sono straordinariamente importanti, utili su come affrontare per il futuro. Qual è l'atteggiamento che viene dal mondo delle imprese italiane? Un atteggiamento in cui certo ci sono tutte le preoccupazioni per questi 6 punti di PIL persi, ma c'è anche una grande volontà di andare avanti, c'è una percentuale elevatissima di gente che ha investito comunque, e ci sono dei valori, delle scelte che gli imprenditori vivono ogni giorno nelle loro imprese e che vogliono trasmettere a un paese che ha delle paure. Quindi ci sono le due Italie insieme. Allora io mi taccio perché ci sono gli ospiti, e direi immediatamente a Luca Paolazzi qui, che illustrerà proprio all'inizio del convegno i temi del volume. Se innanzitutto secondo lui, lo so che è una domanda banale, però bisogna cominciare un pochino con un po' per i nostri ascoltatori di semplificazione, ma predominano poi alla fine più le luci o più le ombre in questa complessa fotografia, Paolazzi? Sicuramente predominano le luci, nel senso che la corsa che ha fatto l'Italia per arrivare a essere parte di quel club ristretto di nazioni ricche è stata straordinaria, ha avuto del miracoloso, nessuno ci avrebbe creduto prima, sarebbe stata considerata propaganda, spicciola politica, populismo, chi si fosse detto o si fosse dato obiettivi così ambiziosi, e questo è fondamentale, va sottolineato tante volte. Dopodiché però bisogna anche ricordarsi che questo non è arrivato gratis, è stato un duro lavoro, una fatica, un'invenzione, un'immaginazione, le migliori risorse del paese si sono dedicate per sé anzitutto, per migliorare la propria condizione personale, e quindi però anche quella del paese nel suo insieme, si sono dedicate a questo sforzo, a questo obiettivo, e ce l'hanno fatta. Noi abbiamo ereditato questo benessere, lo prendiamo in consegna e lo dobbiamo restituire alle future generazioni, intatto e anzi accresciuto, e questo quello che è l'ombra grossa che abbiamo osservato in questi anni, cioè un PIL pro capite che dal 2000 al 2009 è diminuito addirittura del 4%. Certo, c'è stata una grandissima crisi in mezzo, ma prima non cresceva. Nel confronto internazionale abbiamo perso posizioni sia di competitività sia proprio anche di capacità economiche, di condizioni di vita, e questo non va bene perché dimostra il fatto che la ricchezza non è acquisita una volta per sempre, bisogna rinnovare continuamente questo primato, ed è la sfida di oggi, la sfida di domani, dopo la crisi. Una sfida, Luca Paolazzi, che spetta un po' a tutti, ai politici, agli imprenditori, ai sindacalisti, e questo confronto di Parma può essere in fondo una prova della buona volontà di ciascuno. Cosa chiede Confindustria soprattutto ai sindacalisti e ai politici? Lasciami dire anzitutto, direttore, che gli imprenditori lo sanno bene che queste sfide si rivolgono anzitutto loro, perché sono esposti continuamente agli stimoli del mercato, alla concorrenza internazionale, per capacità, volontà, vocazione, ma anche per obbligo sono costretti a innovare, correre, cambiare. Il problema è che il resto del paese li segue poco, e questo è quindi che viene chiesto al resto del paese, di correre assieme, di partecipare assieme, liberando le risorse che ci sono, le risorse imprenditoriali, le risorse umane, le risorse anche finanziarie, che in questi anni sono state bloccate da una serie di vincoli, da riforme mancate. Grazie Paolazzi. Oscar Giannino, presentiamo gli ospiti? Sì, sì, perché sono con noi anche gli autori di altri capitoli di questo volume. Con noi il professor Gianni Toniolo. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Che insegna storia economica alla LUIS ed è anche research professor alla Duke University, e che come sanno chi legge i suoi contributi, insomma, all'evoluzione della storia economica italiana, comunque in questo volume confirma un bel capitolo iniziale, sono una sessantina di pagine, in cui si scandaglia la modifica nel tempo delle caratteristiche degli italiani, per così dire, dell'appunto benessere, reddito, formazione del loro capitale umano, e quindi c'è una fotografia di come gli italiani sono cambiati, spesso dimenticando, perché non è detto che tutti quanti ricordiamo che in 150 anni abbiamo aumentato dell'850%, insomma, il nostro benessere. E poi è con noi anche Fabrizio Galimberti. Buongiorno Galimberti. Buongiorno a tutti. Che nel rapporto, ed è solo 24 ore, che nel rapporto firma un bel capitolo sull'evoluzione dell'economia italiana e il grado di apertura e di libertà nell'economia italiana negli ultimi 150 anni. Se posso fare una prima domanda a Toniolo, si ha tradizionalmente l'idea che gli italiani hanno passato i primi 20-25 anni dopo il secondo conflitto mondiale facendo un enorme balzo in avanti, e poi quello che si capisce anche nella parte finale del volume quando c'è il sondaggio è che gli italiani in realtà, malgrado poi il benessere raggiunto, malgrado il fatto di aver agganciato, insomma, i paesi più avanzati, alla domanda se poi siano soddisfatti o se siano addirittura felici, insomma, gli indici di felicità comparata, non si sentono di dire sì. Allora, questa contraddizione apparente tra ciò che dicono i numeri e ciò che invece poi esprimono nelle qualitative gli italiani, come si risolve? È una condizione diffusa in tutti i paesi avanzati o c'è uno specifico italiano in questa maniera di vivere il benessere troppo concentrato nel tempo e che poi non produce un effetto di stabilità conseguita, come dire? È un po' una situazione generalizzata, nel senso che sia stato osservato in quasi tutti i paesi che una crescita del benessere materiale lungo il tempo non produce un altrettanto aumento della soddisfazione, almeno della soddisfazione dichiarata delle persone nelle varie inchieste. Quindi questo è un po' un paradosso che si osserva, per quanto però bisogna notare che i paesi più ricchi indicano comunque nel tempo una maggiore soddisfazione di quelli molto poveri. L'Italia, gli italiani si dichiarano più rispetto agli altri cittadini europei, per esempio, un po' meno soddisfatti della loro vita, un po' meno. Ora, questo può dipendere da tante cose, perché naturalmente, come noi cerchiamo anche di dire nel nostro saggio, il benessere è composto da molte dimensioni, quindi non c'è soltanto la dimensione materiale dei consumi, eccetera, ma ci sono un'altra serie di componenti che noi cerchiamo poi di analizzare, che in Italia potrebbero essere forse, che ne so, meno soddisfacenti che in altri paesi. Pensiamo all'efficienza, per esempio, dei servizi pubblici, dell'organizzazione in genere di molti aspetti della società. Può essere anche questo un motivo per cui gli italiani si dichiarano un po' meno, non tanto, ma un pelo meno soddisfatti degli altri europei. Quindi e non è una cosa troppo preoccupante, per così dire? Ma preoccupante, ma io credo che la cosa preoccupante è quella che dice Paolazzi, che ha scritto anche quest'oggi sul suo editoriale sul Sole, che in questo paese non cresce da 15-20 anni. Questa è la cosa, la vera cosa che è al centro, che è il vero problema italiano. Poi il fatto che siamo un pelo meno soddisfatti degli altri, io francamente, almeno per formazione, per cultura, non lo vedrei come un grandissimo problema. Ma in realtà non è per fare un'indagine qualitativa a mia volta su di lei nel giudizio della soddisfazione. No, il punto è che io trovo molto interessante che il rapporto, il volume, dedichi poi un capitolo specifico a una questione che ha preso sempre più importanza e attenzione nel dibattito internazionale economico e statistico, cioè quello di come si misura davvero poi il progresso e il benessere, con quali nuovi indicatori condivisi oltre a quello tradizionale del PIL. E c'è un bel contributo su questo firmato dal professor Giovannini, che guida l'Istat in Italia da poco, che è un grande statistico e che secondo me è molto importante e interessante anche che Confindustria intenda offrire un proprio dibattito su questo teorico, ma facendo capire che poi il mondo delle imprese e dell'industria è il primo a porsi il problema di come misurare davvero il livello di benessere di un paese. E allora la mia domanda, tornando su questo, era se poi in realtà aprendo la nostra attenzione a questi nuovi indicatori che si tende, no, in alcuni indici internazionali, quello delle Nazioni Unite e così via, a utilizzare e a condividere in maniera più diffusa per misurare il benessere, se mettiamo la nostra attenzione su quelli, in realtà forse c'è chi dice la condizione del nostro paese, di benessere degli italiani, andrebbe a migliorare invece che a peggiorare rispetto alle graduatorie nelle quali il reddito pro capite definisce in maniera secca il nostro arrivo tra i paesi avanzati e poi il nostro stop nella crescita negli ultimi anni, ricordato da Paolazzi. È più o meno così, e quindi questa specie di ottimismo rispetto alla qualità della vita italiana avrebbe un fondamento, oppure una tesi rassicurante che tende a farci dimenticare che poi siamo fermi da anni nella crescita ed è quello il problema fondamentale? Lei che pensa, Tonio? Penso tutte e due le cose, cioè certamente vi sono delle metriche, come si dice, con cui si misura il benessere, diverse dal PIL, dai consumi, nei quali l'Italia eccelle. Pensiamo per esempio alla speranza di vita e alla salute. Noi siamo un popolo longevo, più longevo dei paesi, di paesi molto più ricchi di noi, e siamo un paese sostanzialmente in buona salute. Questa secondo me è una cosa straordinaria, è molto importante, cioè la salute forse è più importante del reddito, non è la nostra vita così quotidiana, nel nostro benessere. Abbiamo fatto altri progressi enormi in altri campi del benessere, abbiamo sconfitto il lavoro minorile, siamo diventati molto più alti e l'altezza è una misura complessiva importante di benessere. Professore, a dimenticare un po' troppo che stiamo tornando un po' troppo, almeno per i nostri russi, analfabeti o no? Ecco, stavo per dirlo, la scolarità è il tallone d'Achille del nostro benessere. Noi la grande sfida dell'alfabetizzazione di massa è stata vinta, però abbiamo una serie di analfabeti di ritorno, come diceva lei, e al tempo stesso istruiamo meno e probabilmente istruiamo peggio, cioè, degli altri paesi. Il 5% di analfabeti di ritorno in alcune regioni italiane è una cosa, insomma, preoccupante, ecco. Questo è uno dei temi che Tullio De Mauro continua a sottolineare, che a mio parere è molto importante, certamente, e forse ha a che fare con i problemi poi che abbiamo un po' della crescita, o di trovarci in difficoltà di fronte a un'economia che cambia così rapidamente e che chiede capacità di adattamento che probabilmente una forte scolarizzazione aiuterebbe. Ecco, Oscar, se è possibile, io vorrei anche chiedere a Fabrizio Galimberti, che è un economista, anche se se anche Fabrizio ha scritto libri di storia dell'economia, se su questa, diciamo, questo confronto tra la quantità e la qualità della crescita, come giudica la situazione italiana? Fabrizio. Grazie. Sì, il confronto fra la qualità e la quantità della crescita è molto importante, e in genere anche a causa della scarsezza di dati, tutti i confronti che sono stati fatti nel passato si sono aggrappati più alla quantità che alla qualità della crescita. Oggi il problema della quantità e qualità è specialmente importante per l'Italia. Io faccio un esempio per tutti, quello della spesa pubblica. Ecco, è diventato un ritornello quasi ossessivo dire che bisogna tagliare la spesa pubblica improduttiva, e questo viene presentato come un deus ex machina, come un modo per uscire dai vincoli di bilancio. Tutti dicono che i risanamenti fatti attraverso il taglio della spesa sono più duraturi, sono più qualitativamente appaganti dei risanamenti fatti attraverso l'aumento delle entrate. Ecco, però quando si tratta di indicare nel dettaglio quali tagli della spesa fare, ecco che si finisce per ammutolire, perché tagliare la spesa improduttiva è solo uno slogan, visto che la nostra spesa pubblica nel confronto internazionale, una volta che si astragga dal pagamento degli interessi, non è affatto alta, anzi è relativamente bassa rispetto ai paesi con istituzioni simili alle nostre. E quindi il problema, questo non vuol dire che non bisogna insistere sul problema della spesa pubblica, perché è cruciale, ma è cruciale per la qualità della spesa pubblica, non per la quantità. Ed è certo molto più difficile per i governi migliorare la qualità della spesa pubblica, perché questo vuol dire cambiare l'educazione, cambiare il capitale umano, cambiare la mentalità, cambiare le regole, cambiare le procedure, cambiare le attribuzioni di responsabilità ai dirigenti pubblici. Ecco, questo della qualità è veramente il confronto, la linea di confronto sulla quale noi ci attestiamo oggi, ed è un problema di qualità che, come sanno gli imprenditori, investe non solo la qualità della spesa pubblica, ma soprattutto la qualità dei processi e dei prodotti attraverso i quali loro si confrontano con il resto del mondo. Ecco, gli imprenditori che sono i primi a dover cambiare e a voler cambiare, perché poi la dinamica anche della competitività è certamente qualcosa che non si ferma, e chi sta fermo non può andare indietro. Bentornati a 9 in punto, bentornati da Gianfranco Fabi. Stiamo parlando dei temi del convegno di Parma, che questo pomeriggio e domani mattina riuniranno imprenditori, politici, sindacalisti, banchieri a confronto sul futuro dell'Italia, su che cosa fare per sbloccare l'economia italiana, per riprendere la strada della crescita. Ne stiamo parlando con Oscar Giannino, con Luca Paolazzi, con Gianni Tognolo e Fabrizio Galimberti. Ecco, io chiederei a Giannino di appunto riassumere anche i temi del rapporto, dove è possibile trovare questo rapporto del Centro Studi Confindustria, come si intitola questo libro e quali sono appunto i temi di fondo, per ricordarli ai nostri ascoltatori. Oscar. Ma i due termini sui quali questo rapporto sui 150 anni italiani, con cui il Centro Studi Confindustria ha voluto dare il proprio contributo ai 100 anni di Confindustria, perché poi c'è anche questo anniversario importante per Confindustria quest'anno, sono libertà e benessere. E viene sottolineata con particolare convinzione da Luca Paolazzi nell'introduzione del volume che la libertà, quindi la categoria del vivere civile, della qualità del vivere civile, il progresso della condivisione di valori, è stato uno dei criteri attraverso i quali Confindustria ha scelto di misurare, di incentrare il contributo alla crescita economica del paese, delle imprese, innanzitutto dell'industria e della manifattura, ma sempre avendo a mente che il percorso compiuto, e soprattutto la parte ancora da compiere, perché abbiamo ricordato la preoccupazione rispetto agli anni pre-crisi in cui l'Italia in realtà cresceva meno degli altri, ecco, l'obiettivo civile della crescita condivisa del paese è il criterio che sta in entrambi questi termini, quindi per questo libertà e benessere. Oltretutto è un binomio che secondo me calza abbastanza bene rispetto poi a quello che sarà prevedibile impasto sui media di questi due giorni, perché è contemporaneamente la prima grande occasione in Italia di dibattito pubblico dopo le elezioni regionali e il risultato acquisito delle regionali, mentre è in corso la crisi dell'eurodebito greco e irlandese, e con la prospettiva di avere tre anni senza elezioni in Italia, e con la possibilità quindi questa volta, dirà il presidente di Confindustria, l'ha anticipato il Financial Times, oggi lo riprende il Sole, che in questi tre anni quindi i nodi del paese che ereditiamo dai 150 anni e che si leggono in questo rapporto, ma che sono terribilmente aperti, che ci chiamano a risolvere il problema del gap di crescita rispetto al precrisi, trovino finalmente delle risposte decise e decisive da parte della politica, senza più appellarsi a questa o quella scusa che tende a far rinviare i problemi strutturali. Io volevo ricominciare oltretutto con una domanda a Luca Paolazzi, approfittando del fatto che poi lui a 9.45, quando facciamo la pausa per le informazioni stradali, ci dovrà lasciare perché deve raggiungere una prima riunione prima dell'inizio dei lavori di oggi pomeriggio, poi continuiamo nella seconda parte con gli altri ospiti fino alla fine. Ma mi ha colpito che un ascoltatore ci ha mandato un sms chiedendoci: ma io voglio capire in realtà se abbia ancora senso in Italia laurearsi in ingegneria elettronica o telecomunicazioni, visto che non c'è più né lavoro né industria. Mi colpisce molto che gli italiani possano avere, una parte degli italiani, l'impressione che questo è un paese dove non c'è l'industria, quando invece siamo un paese in cui l'industria, grazie al cielo, è una delle caratteristiche positive dell'Italia che più contribuisce all'esport, ce n'è. Allora Paolazzi, che risposta dare a un ascoltatore che ci chiede questo? La risposta è duplice: da un lato è quella che tu hai appena dato, ed è una smentita del fatto che nel nostro paese non ci sia più industria. Forse l'ascoltatore si riferisce alla mancanza di grandi industrie, quelle che hanno i grandi laboratori di ricerca, ma ricordiamoci che le nuove tecnologie e i giganti nelle nuove tecnologie sono nati dal nulla, sono nati piccoli. Pensiamo a Steve Jobs, pensiamo alla Microsoft, sono tutte, diciamo, aziende nate in sottoscala. Da che cosa? Da lauree in ingegneria elettronica. E quindi l'altro tipo di risposta che vorrei dare a questo ascoltatore è che non c'è solo una domanda che manca o che è scarsamente attenta di ingegneri elettronici, ma che ci deve essere anche un'offerta che promuove la crescita e l'innovazione nel nostro paese. Questo era un tema caro a un amico economista che diceva appunto: bisogna puntare sull'istruzione, la scuola, il capitale umano, perché questa offerta genererà maggiore crescita economica nel nostro paese. Condivido assolutamente quello che diceva prima Gianni Toniolo, questo professore e questo economista era Riccardo Faini, e anche a lui si diceva spesso: guardate, però nel nostro paese le imprese domandano pochi laureati, preferiscono operai, preferiscono gente non specializzata. Forse peraltro questo era vero un tempo, oggi non lo è più, c'è sempre più richiesta di gente specializzata anche da noi. Certo, occorre poi essere anche capaci di lavorare in azienda, capaci, disposti a cambiare all'interno dell'azienda, a viaggiare, perché ormai le imprese manifatture italiane devono essere sempre più internazionalizzate. Uno degli aspetti che si tocca, si approfondisce nel volume, sia nel capitolo curato da Galimberti, poi in un capitolo curato da Fulvio Cortorti di RS di Mediobanca, è la tipologia di imprese per classe dimensionale, per numero di occupati nel nostro paese, come è cambiata nel tempo. E anche qui c'è stato un periodo, diciamo, qui c'era una tendenza e poi una tendenza di lungo periodo che è tornata a diventare pressoché la caratteristica fondamentale del nostro sistema produttivo. È ovvio che sto parlando, Luca Paolazzi, del quarto capitalismo, dei quattro diversi capitalismi. La domanda che ti faccio, e quindi del fatto che in Italia abbiamo creduto per decenni che la grande impresa dovesse crescere di numero, di importanza come percentuale di occupati sul totale, il suo ruolo in Italia, per poi registrare invece il fatto che la grande impresa italiana si contrae da anni e quindi la piccola impresa, caratteristica da sempre, di diventa poi la caratteristica di fondo del nostro sistema. In tutto questo però la domanda è che su questa ricostruzione storica si capisce anche che nelle risposte degli imprenditori al come vi sentite in questo paese, come pensate che sarà la vostra azienda di qui a un anno, 5 anni, cioè nella parte finale del sondaggio, quando del rapporto, quando c'è un sondaggio in cui gli imprenditori tirano fuori quello che hanno dentro, si capisce che le diverse tipologie di imprese italiane portano anche ad avere diverse aspettative, diversi livelli di fiducia in se stesso, ecco, perché a seconda di se si sia impresa che si produce sul mercato interno, che si affronti la concorrenza internazionale, la concorrenza internazionale dell'Asia o della Germania, gli atteggiamenti cambiano molto. La domanda che faccio a Paolazzi è: in queste differenziazioni che sono dovute sia al peso della piccola impresa sia al tipo di clienti produttori per cui si lavora, comunque prevale un elemento di forza dell'impresa che ha investito comunque, che è comunque convinta di farcela e che ce la farà, oppure anche nell'impresa, come nel resto della società italiana, si vede nel sondaggio, ci sono elementi di preoccupazione che inducono a chiedere dallo Stato tutela, autoprotezione, meno concorrenza, insomma, quale aspetto prevale? Ma come hai detto giustamente tu, non c'è un'impresa che, come dire, rappresenta tutte le imprese. Ci sono tanti tipi di imprese a seconda del settore in cui operano, i servizi piuttosto che il settore manifatturiero, perché questo è un campione che si rivolge all'universo degli associati di Confindustria, e Confindustria associa anche imprese di servizi, anche imprese delle costruzioni, quindi non solo manifatturiero. E all'interno del manifatturiero ci sono quelle imprese che producono prevalentemente per il mercato interno, magari perché sono terziste, quindi sono inserite in una filiera dove la testa è un'impresa che ha reti lunghe, opera sui mercati internazionali, esporta, ma questa impresa di cui parlavo all'inizio è parte di questa filiera, ma non esporta direttamente. E poi ci sono invece, come dicevi tu, quelle imprese che operano sui mercati internazionali e che subiscono di più la concorrenza dei paesi emergenti, in particolare la Cina, dove va detto ormai la Cina è temuta ed è considerata concorrente al pari della Germania, oppure sono quelle imprese che operano avendo come concorrenti i paesi industrializzati, e quindi in testa il concorrente principale è appunto la Germania, seguita dalla Francia. Allora, ci sono diverse tipologie di imprese e diverse quindi paure, se vogliamo, timori e richieste. Ma se guardiamo, diciamo, alle richieste, c'è in generale un po' di voglia di protezione dalla concorrenza considerata tra virgolette sleale. Ma poi quando si chiede a loro se volete più concorrenza nel nostro paese, la risposta è sì, vogliamo più concorrenza al 60%, ed è una maggiore concorrenza richiesta là dove i settori economici della nazione non sono già esposti alla concorrenza internazionale, sono protetti dalla concorrenza internazionale, sono quindi soprattutto i settori dei servizi, quelle delle grandi utilities, dai trasporti in ferrovia ai trasporti aerei, all'energia, e pensiamo poi anche ai servizi pubblici locali, alle professioni, al commercio. Queste sono le aree in cui si chiede più concorrenza, con l'idea appunto che in questo modo si possono liberare risorse, ridurre i costi, generare maggiore qualità e quindi produrre più benessere. Non benessere solo materiale, come indicava prima giustamente il professor Toniolo e come tu dicevi citando il saggio di Enrico Giovannini, però su questo vorrei ricordare che esiste un legame che va comunque dal benessere materiale alla qualità della vita, anche perché questo benessere materiale misurato del PIL non è una costante nel tempo, ingloba prodotti sempre nuovi che sono quelli poi che ci consentono di cambiare il nostro modo di vivere e metterci per esempio più in contatto con le altre persone, lavorare meglio, fare lavori meno pesanti, consentirci di avere più tempo libero e quindi di goderci maggiormente l'esistenza. Ecco, grazie Paolazzi. Se Oscar mi permette, lascerei la linea a un ascoltatore, ne abbiamo alcuni che ci hanno chiesto di parlare. Giuliano da Padova. Sì, buongiorno. Buongiorno, sì. Rapidamente se può, grazie. Sì, guardi, il contributo che voglio portare io è che io sono in commercio proprio da 25 anni. Io sarei in crisi da 25 anni, nel senso che effettivamente ho sempre dovuto combattere e lottare per tutto quanto. Questo per riallacciarsi alla questione che si dice che ci sia questa grande crisi che blocca lo sviluppo, che blocca il paese Italia. Io sinceramente, guardi, sono sulla strada dalla mattina alla sera e io tutta questa crisi, dico la verità, non la vedo, perché vedo movimento, ordini, traffico tutti i giorni e praticamente riguarda tutte le aziende, da quelle piccole a quelle grandi. Chiaramente non siamo più agli anni 80 o agli anni 90, il mondo dell'economia, il commercio è cambiato radicalmente e io penso che gli anni 80 e gli anni 90 non ritorneranno mai più, anche se tantissimi operatori finanziari, tantissimi commercianti con i quali io parlo quotidianamente dico ma aspettiamo che si muova, che aspettiamo che si risollevi e ritornino i bei tempi e questo e quell'altro. Io penso che gli anni 80 e gli anni 90 non ritorneranno mai più. Grazie, grazie Giuliano da Padova. Se c'è ancora Luca Paolazzi, un rapido commento: gli anni non tornano più, la crescita potrà esserci anche se sarà diversa dal passato. Beh, purtroppo gli anni non tornano più per nessuno, verrebbe da dire. Questo tipo di commento si sentiva anche negli anni 70, quelli della grave crisi petrolifera, in cui la gente vedeva comunque camion sulle strade, consumava, andava al ristorante, quindi diceva ma in fondo cos'è questa crisi, non c'è una vera crisi. È lì che torna utile avere indicatori statistici come il PIL o indicatori aggregati che ci fanno vedere come la dinamica nel suo complesso è peggiorata e quindi in realtà occorre tener fede e dar fiducia a questi indicatori, perché se ci basiamo solo alla nostra aneddotica avremo sempre qualcuno che dice la crisi non c'è perché io sto bene o perché intorno a me stanno bene. In realtà appunto il nostro è un paese che non cresce da tanti anni. E l'altra cosa che mi fa impressione è dell'analisi di questo ascoltatore, che ringrazio per questo, è di dire ma aspettiamo che le cose tornino come prima, aspettiamo che non possiamo aspettare, la crescita non è mai stata qualcosa che cade dal cielo, è sempre stato il frutto di operare, di investire, di rischiare, di darsi da fare, e questo è il ruolo in fondo cruciale dell'imprenditore e dell'intrapresa e anche dei lavoratori che si inventano a loro volta nuovi mestieri o che si impegnano, studiano, si preparano, fanno del loro meglio. Senza diciamo questo attivismo, senza questo rimboccarsi le maniche non torneranno mai i bei tempi della crescita ed è questo il vero rischio del paese, di addeggiarsi, di accontentarsi. Bentornati a 9 in punto, libertà e benessere, l'Italia al futuro, questo è il tema del convegno di Confindustria che questo pomeriggio domani mattina riunirà a Parma imprenditori, politici, sindacalisti da confronto su cosa fare per riprendere lo sviluppo dell'Italia. Oscar Giannino è a Parma. Oscar, allora io direi che possiamo provare a fare ancora due focus aggiuntivi, uno con Galimberti e uno con Toniolo prima della chiusura. E io inizierei con Galimberti perché uno degli aspetti approfonditi nel suo saggio, nel volume in cui ci sofferma sull'evoluzione della libertà di impresa in questi 150 anni e poi in un altro saggio curato dal Bruno Leoni in cui si danno dei numeri comparati sulla libertà di intrapresa in Italia e in Europa. Ecco, questo concetto della libertà, quindi dell'apertura, della concorrenza al mercato eccetera, è uno dei classici temi su cui c'è la polemica nella storia economica italiana, ma anche nel dibattito di tutti i giorni, perché ci si chiede sempre chi abbia avuto a proprio vantaggio un sostegno da parte dello Stato, quali settori, per quanti anni, e ci si chiede, in comparazione di altri paesi, se poi da questo punto di vista siamo un'eccezione o c'è invece chi più di noi, prima di noi e ancora oggi dopo la crisi e nella crisi in cui lo Stato espande ulteriormente la sua sfera d'azione, magari ci insegna e ci predica libertà di mercato e concorrenza, ma invece poi a casa sua e nelle politiche europee tende invece a fare protezionismo. Io do solo due numeri prima di fare la domanda a Garimberti su questo. Nel capitolo curato dal Bruno Leoni c'è un raffronto che, ohimè, è un po' terribile per l'Italia, perché si conclude che l'Italia è attualmente, dal punto di vista della libertà di intrapresa economica, il paese meno libero di Europa, perché le nostre imprese, in una scala da 0 a 100, si spiegano tutti i criteri con cui si arriva a questa conclusione, godrebbero di una libertà pari a 35, ben sotto la media europea, pari a 57 rispetto al nostro 35, e a distanza siderale dal paese più libero, l'Irlanda, che sarebbe 74. E in tutti poi i settori in cui viene articolata questa analisi comparata della libertà si vede che ce n'è uno nel cui siamo meno lontani dalla media europea, che è il mercato del lavoro, dopo gli interventi della liberalizzazione dalla legge Treu del centrosinistra ai successivi interventi poi Biagi, per capirci, nel centrodestra. Ma al di là del mercato del lavoro, per il resto, libertà del fisco, regolamentazione, cioè siamo a livelli terribilmente lontani dai paesi europei che invece godono di punteggi più elevati. Però la mia domanda a Galimberti è: complessivamente, rispetto a quello che sta succedendo nella crisi, al fatto che i tedeschi poi tendono a dire ognuno a casa propria, però ognuno a casa propria più libero di prima di dare sostegno statale a questo o quel settore dell'economia, in realtà il bilancio attuale dell'Italia, dal suo punto di vista, la sua prospettiva più storica che comparata, è che bisogna essere preoccupati perché non ce n'è abbastanza di libertà di impresa, oppure c'è una voglia che oramai si è sedimentata e radicata nella realtà imprenditoriale ed economica italiana, per cui c'è stata una rottura, per così dire, l'antitrust all'inizio degli anni 90, per cui da quel momento in poi l'Italia ha capito e si è convinta che la libertà di impresa e più concorrenza significa più benessere per tutti? Ma senz'altro c'è stato un punto di rottura che è anche innescato, in un certo senso, per usare una parola grossa, dalla disperazione di un paese che non riesce a crescere, non tanto per colpa degli imprenditori quanto perché l'ambiente esterno, a partire per esempio da quella fondamentale infrastruttura che è la certezza del diritto, l'ambiente esterno non lo favorisce. Quando per far valere i propri diritti bisogna ingonfarsi in una macchina della giustizia che ci mette anni e anni prima di dare risposte certe e definitive, ecco che tutto questo implica che il paese zoppica sulla strada della crescita, perché manca appunto questo quadro giuridico di certezza dei contratti. Poi soprattutto quello che manca, e qui è un filo rosso che lega la storia passata dell'Italia al presente, è quello della pubblica amministrazione. Abbiamo una inadeguata collaborazione fra pubblico e privato, qualcosa che affonda le radici in una storia secolare in cui l'Italia, paese giovane e unificato solo da 150 anni, è stato prima sottoposto a vessazioni, a dominazioni straniere, frammentato in stati e staterelli in cui c'era un sospetto reciproco fra pubblico e privato, una incapacità di collaborare, un vedere il pubblico solo come dominatore e da parte del pubblico vedere i cittadini come dei sudditi da controllare e da vessare. Ecco, tutto questo fa sì che l'Italia non riesca a funzionare come sistema paese, sia più una somma di interessi che, come dice l'introduzione di Luca Paolazzi alla fine, sia più una somma di interessi che un sistema volto a raggiungere delle vete sulla base di una collaborazione in quella mezzadria fra pubblico e privato che definisce appunto l'economia di mercato. Ora, e tutto questo è qualche cosa che è emerso veramente anche nella coscienza nazionale ed è qualche cosa che in questi tre anni, come si diceva prima, di operare senza lo spettro, la spada di Damocle delle elezioni, potrebbe spingere a quelle riforme che ci possono finalmente far funzionare come nazione, non solo come somma di interessi. Io devo dire, Garibaldi, che quando leggo nelle ultime settimane e anche su grandi organi di informazione come il Corriere, che importanti pezzi dell'economia italiana, come il mondo delle professioni da una parte, come il mondo del commercio dall'altra, si accingono a stati generali delle professioni col governo, in cui chiedono delle tutele che a me non sembrano molto concorrenziali, sembrano delle tutele più figlie della paura della crisi che di un abbraccio serio dei valori della concorrenza. Quando vedo dall'altra che il rischio che le categorie del commercio, dell'artigianato, ai quali dedichiamo molta attenzione da questi microfoni, nessuno può dire a Radio 24 di Confindustria di non occuparsi di questi temi, lo facciamo sistematicamente, vedo anche lì il rischio che da parte di Capranica ci siano delle richieste di politiche di tutela, di prezzi amministrati, a volte mi vengono dei dubbi, mentre invece nella mia esperienza il mondo dell'industria italiana della manifattura, quello soprattutto che si batte sui mercati esteri o sui mercati interni, ma non a prezzi amministrati, non regolamentati, non quelli dei servizi pubblici locali, lì invece vedo che si è capita davvero la lezione. La mia domanda ultima per Tognolo è... Ecco, solo un minuto, professor Tognolo, mi spiace ma siamo purtroppo in chiusura. Prego, Oscar. Finale del capitolo in cui ci si occupa anche della partecipazione degli italiani alle elezioni, ma in questo bisogna davvero preoccuparsi, non siamo il paese che continua a votare più degli altri, cioè gli italiani sono così sfiduciati a vederli attraverso l'indagine che avete fatto? Non sono sfiduciati, io non credo che sia questo. Noi abbiamo fatto un'indagine di breve di lunghissimo periodo per dire che la partecipazione alla vita politica, che è cresciuta nel tempo, almeno fino a pochi anni fa, è una parte importante del nostro benessere. Quindi per noi era semplicemente un indicatore di una di queste dimensioni non misurabili in moneta del benessere degli italiani. Quindi questo noi vedevamo un aspetto positivo della nostra società. Perché essere partecipi alla codeterminazione del proprio destino è certamente un elemento, a parte le valenze politiche, sociali, eccetera, ma anche del benessere individuale, io credo. Grazie professor Tognolo, con questo elemento positivo io mi permetto di chiudere qui, purtroppo il tempo scorre veloce, ci sarebbe la necessità di approfondire ulteriori elementi, ma ringrazio Oscar Giannino da Parma, Gianni Tognolo, Fabrizio Galimberti, Luca Paurazzi che ci ha accompagnato prima, ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno chiesto di intervenire ma non abbiamo potuto far intervenire: Alessandro da Vicenza, Bruno da Roma, Antonio da Cosenza, Filippo da Varese. Ricordo che nel pomeriggio alle 17 Focus Economia con Sebastiano Barisoni parlerà direttamente da Parma dei temi in diretta del convegno. Domani nel GR delle 13 ci sarà un altro speciale per fare il punto su questo convegno di Parma. Da Gianfranco Fabi grazie, e adesso la linea alla pubblicità e al GR. Yeah.